sto chiamando. Brecco Italia, attenzione, Brecco Italia. Berto Quadrato, Brecco Sassari. Brecco Italia, attento, Brecco Italia. Grazie. tutti i signanti, tutti volevamo mettere certo quel ferro, boh, e loro vanno a pulire Sassari. Io veramente sono desolato, fa schifo. Ma comune vecchio di Santa Caterina, dove stai dicendo? Ma comune, lì a Civitero, vabbè. Fa schifo, ci sono porte vecchie, ma non sono in fuori, sono fastidi, è mollezza, fa spazio per i furgoni, e c'è niente cose di girarseli, boh, ma veramente, non ho parole, tutti i giorni che vanno in comune, cioè non mettono a posto, dice, boh, ci sono 20 macchine dentro, 30 macchine. Ce l'ho per questo di ghiaccio, non è che per farvi un acrobazio, ma per far posteggiare la macchina, mia voce. Ma cosa è gatta, non vedo così lunga, dentro te sa roba di vetro, se ci piace, è obbligato di dare un fuoco. Ora li fuoco lunga. Per passare a me, ma se mi ha messo in mugna, niente. Guarda che abbiamo scuolato, come si chiama, pulito il... diciamo il ripostiglio, ecco, lo mettono i ferri, i muratori, diciamo queste cose in pratica, fanno gli scavi, no, per provare il terriccio se è buono, e una volta stiamo impulsando, se ti capita la tariga, rientri, guarda, beh, sotto la barra, c'è la barracca lì a fianco, sono dei cusinieri, tutti noi abbiamo spostati lì, cioè la vedi l'altra mano carica nella camera, poi le portavano dentro, ma era minuto, ma no, sono fatto un culo, me, così, poi da lì, verso le 11, lui pretendeva di andare a fare il massetto, là, a fare il marciapiede, il cuscino di geometra, ma manca lui su geometra. Guarda, ci è mancato poco, ve lo picchiamo, buongiorno, perché a me ordine non me ne poteva dare lui, capito? Ecco, il chi viene la macchina, chi invece di sarà per la sua gatta, quella ci va a far buccia. Domenico! Fa schifo, ciao Domenico. La divisa da lunedì, martedì, oggi è mercoledì, e forse domani sono massimo venerdì. Ecco, tanto la paghiamo noi, ma c'è la diviale. Io tanto continuerò a mettermi le scarpe ricche, non mi rimango questi nomi, ma sono la compresa lunga. Domenico, questa è greca, 11 alfa. Zacca, e lo sono in di chiaro, ma casino. Tu se non hai le scarpe antinfortunistiche, non lavorare, non devi lavorare, non puoi lavorare se non hai le scarpe antinfortunistiche. No, c'è io, quello è... mi hanno dato là, c'è io, c'è quello un paio nuovo nuovo anche, ma aspetta, due paia, una abbiamo ordinato e l'altra è la cassa idrica, ma non mi impongo molti nomi, io non so che la portata, io ho letamente acqua nelle scarpe, io non so, ma... E che l'altra non la faccio entrare a richiederglielo. Era una faccia in terra, sono così a prima di mandare. E già stamattina una gli ho chiesto di dire se è arrivata la roba. E si mandava a me. Chiedilo per te, se ti mandava a me. Perché io chiedo sempre io, e hanno anche la vergogna di chiederlo. Fa schifo, va. È uno schifo. Se gli abbiamo chiesto una scopa per dire l'imbrunare un marciapiede, no? Fare il cementino, no? Poi buttare la sola con la scopa. C'era una scopa, c'era un altro con loro grossa, ma secondo cioè lo metti poi il mio marito, non va bene la scopa lì, abbiamo chiesto una scopa di quello che in casa e ci ha detto che non ce l'hanno, non ne hanno, una scopa, che costa 1 euro. Luca, sì, non devi pagare. Luca, allora, detto a parole non serve a niente, tu prendi un pezzo di carta e scrivi io sottoscritto o lui sottoscritto le persone, si fa richiesta al capo del personale, numero una scopa, una cosa, o ci scrivi la data e lo firmate e poi glielo dai, perché tu voi mi ci potete dire tra una, no, voi non mi avete mai detto niente, mentre c'è carta che canta, tu c'hai sempre una prova, dici guardate, noi stiamo lavorando senza calzature antifortunistica, senza il giubbotto per ripararci dalla pioggia, e pisa calci le celle portanti lui se non fa quello che deve fare la regola, perché voi se state lavorando dovete essere in regola, i soldi glieli danno per fare lavorare gli operai, per cui non c'è niente da dire, se no dopo a Cinchieri, il dirigente di lì chi comanda. Come siamo tranquillioni, e sino qui una mezza lettera raccomandata con ricevuta del ritorno all'ufficio personale, correndo i dati la cosa, fate una bella lettera all'ufficio personale voi. Allora, per legge, far leggere. Quando abbiamo fatto, cioè abbiamo ascoltato questo della sicurezza, no? Ha parlato del casco, ha parlato degli occhiali, ha parlato dei guanti, ha parlato delle scarpe antifortunistiche, ha parlato dei pantaloni, quelli che hanno il coso rifrangente, insomma, ci vuole. Invece lui ci ha fatto iniziare con le scarpe nostre, con i pantaloni nostri, cioè è una cosa lucida, poi arriva nella roba, poi ti fa di qua a lavorare. E poi i soldi fa 45 giorni, ma ti rendi conto? Cioè io ho aspettato ancora un mese a prendere i soldi e facendomi destina. No, ma ce la mano, guarda, non penso di ritornarci un'altra volta lì, non posso più. Ma vai, non va andare con i botti durante, con i botti normali, così non travagli, e lui vai a fuga, tu e lasciami. Cerca una roba anche in portunistica, non potete lavorare, se lui non ve la dà non vi può obbligare a lavorare anche, vi pigliate più fatto una lettera all'ufficio personale. Ma devo ordinata, prima una settimana, devo ordinata, giovedì discorso, una settimana già si è passata, adesso quasi due settimane, domani, domani giovedì, due settimane sono passate. Ecco, tu vai con le scarpe normali e non puoi lavorare, e non lavori, molto ci vuole. Tu che non ti do la roba, tu le scarpe, tu con le scarpe pigli e per i buchi, i nomi sono fasciati. Ma, ho parole, guarda, la macchina sono arrivate, ancora l'ho comprato due trabattelli nuovi, che adesso i pittori stavano quasi per terminare, poi li finiscono. Allora, vediamo, poi di 10, poi questo lunedì non viene, all'altro, il 22. Avevo comprato un gruppo di elettrogeno, due gruppi di elettrogeni nuovi. Avevo comprato due ruole nuove, facevamo la piccola e avevamo la grande dentro, due valigette, un tango, 500 euro costa, questo io voglio chi miei della bolla. Cioè, se lo comprare i grattati me la vedi, ma comprare una cuba non me la vedi. Uno schifo proprio. È uno schifo sì. Però se lui non fa richiesta, tocca pagare lui quel giorno, che non ne paga di quel cazzo, ma è un peso che non è com'è. Non lo invidia. Io vado a travagli a mare, ma non ne ha tutti nulla. Allora vedi che coglione quel giorno. E lui dovete andare con le scarpe normali a lavorare, così non potete travagliare. Lui si vede l'ingegnere della sicurezza, non vi trova in regola, fa cosa anche a voi. Qualcuno quando state lavorando mi dice una dice guarda c'è quelli che cantere che stanno lavorando senza le scarpe e quando li bloccano subito il lavoro avete servirate la roba lui. No, ce ne abbiamo le scarpe antifortunistiche roba, ce ne abbiamo le nostre, poi ce le mie. Allora l'unico che l'ha preso un ragazzo, non era proprio nessuno e ne trovare qualcuno che le prestava. E a lui gli hanno date le scarpe, l'unico paio sono rimaste, gli hanno date nuove. Ma c'è lui ci sono la divisa, roba, c'è i jeans, questa notte mi sono comprato e pulito. E più pulito quando mi sono messo lunedì, che ho fatto lunedì, martedì, due giorni. E più pulito quello che poi mi sono messo oggi, mi sono fatto la beffa. Uno schifo, la beffa mi sono fatto. E allora scusate un attimino. Cosa? Invece batte che sei andato con le potenti infortunistiche, invece dovevi andare vestito normale con le scarpe normali. E così non puoi portare a lavorare. Invece per te che sei andato, adesso vi tocca lavorare con quelle scarpe che avete. E non vi invidiami a chi sa chi la vedi e invidia. No, devo ordinare Natalia, assolutamente. Sono andati là di essere ordinare. Vai Roberto, stavi dicendo. Io intanto questo mi guardo la partita, adesso per iniziare, mangio qualcosa e poi. Vabbè, ciao Luca, Natalino, Gianni, Falchetti e tutti gli amici di Eventuali in ascolto. Cuoriti da parte mia. Ciao ciao a tutti. Ciao, vabbè, buona partita, adesso lo se ne va, anch'io me la chiudo qua. E mi guardo un po' di televisione anch'io, va. Ciao a tutti, ciao Luca. E giù a voi se per la mia andavo sempre in normale, con le scarpe normali tutti subito mi dovevo dire, ci vuole un cavolo che entrava in macchina e. Vabbè, comunque. Allora ci fermo lui. Adesso io voglio, sono un vecchio, e taglio. C'ho le scarpe rotte, io non ci vengo, non ci lavoro con le scarpe rotte. Ma taglio, ho coltello. E lì sono a prendere il momento che passava. No, ma comunque la roba l'ha ordinata. Solo che stavo aspettando, cioè, siamo in otto, perché tra giubbotto, pantalone, sputo completo, camicia, noi ci siamo buco di muro a mare, che l'ombra di bongo. Sì, vabbè, comunque, se non avete tutto l'equipaggiamento, noi il metro, tutto quanto, no, non vi trova niente, perché se viene quello della sicurezza e vi trova senza la roba appropriata, so capo di voi, mi ricordo che non si pende di là della mucchia, chiuso con il re. E si può farsi il mare di bianchi, ma a me manco maricato in basso. Lo segno, poi gli porto la fine mese, gli porto la l'ore che ho fatto. Ah, bisogna fare i suoi. Come gli porti le ore? Tu non devi buttare niente, mi devi venire a rimito il stipendio e vola di 15, mi pagano. Sì, ma no, io per sicurezza, non lo sto segnando. Per esempio, lunedì 6 ore, martedì 6 il primo, no? Poi giovedì cassa integrazione, cioè due me ne pagano il comune e quattro ore me ne paga l'integrazione. E dopo questa settimana altre ore. E così quando è, se loro dicono, no, tu infatti non hai lavorato, anche quando devi dire pure un peso. E io poi come mi disse, non si sa mai. È in stampa che intanto te le segnano le ore, in stampa che sono segnate, capito? Se non si può travagliare, gli altri compreso. Qua esempi. Io non esempi. Poi si vedrà. Capito. Si vedrà. Oh, yeah. Ma non sono organizzati bene comunque, no. Cioè chi non la scopre non te la danno. È uno schifo. Vabbè. Vabbè, là. Adesso vado a mangiare qualcosa e poi mi saluto se ho visto. Beh, ciao, non c'è problema. Tu a tutti i dì parlo per il doio, perché quello è un posto pubblico e non ha ne gana di travagliare, non ci sono né a tutti nulla. Non me ne frega. E quindi, anzi, io ci avrei messo la firma per la quale fissa. Quelli che fanno, ma dormono, fanno un cacchio, nulla, nella differenza nostra, Poi se mi fa scendere a confendi, facile confendi, facile direchina. Sento un rumore, sento. Un rumore mi senti? No, quando smetti di parlare sento una specie di pernacchia. Mi sa una cosa, c'è una pernacchia, boh. Yogi, sì, cambio. Positivo Mario, positivo. Un po' così però già ti sento. Gappa, sto modulando, diciamo così, come, come in Australia. Gappa, arrivata l'antenna Mario. Ah? Senna è arrivata. Questo, no. Non te l'hanno rapportata. Ma non è una trovata a casa. Grazie. Allora, sempre grazie, ma anche se è stato un altro. Fa gappa. Ha fatto gli allarghi, se non si trova. Gappa, gappa. Sì, comunque fa importante il breve primario, perché c'è un innesco stasera allucinante. Attento Yogi, attento Yogi, se compi Giovanni una tasse blu. Attento Yogi, se copri Giovanni una tasse blu. Non ho capito, ripeti. Attento Yogi, se copri Giovanni una tasse blu. Mi dispiace, non ho capito quanto ho detto, eh. Ah, mi senti Yogi, mi senti. Positivo, forte e chiaro, ma non ho capito il concetto. Ho detto se mi copi, sono Giovanino, una tazza e boh. Positivo, positivo. Ci siamo sentiti anche l'altro giorno, eh? Mi devi scusare, ma essendo nuovo, sto cercando di imparare, là. Sono quello che è in compagnia di Raffaele Mezzatazza. Cappa. Ma il sassonese lo capisci, sì. Positivo. Dove ti trovi? 1-3-1. Guarda, sei tu, vabbè, passo. Non ti sento. Mi piace di stasera di stasera una tazza. Ci mettete. Non mi rispondi. Cappa, credo che c'era qualcuno parlando, Mario. Ma sono c'è una tazza in turno. Oh, no, tu, ma chi è? Mario Mansell. Mario Mansell. Papa. Ma Mario Mansell. Sta fischiando il tutto, infatti ho detto. È importanti brevissime. Mario! Via! Mario! Ma tu a me non mi senti? Io sento una specie di fischietto e basta. Ma tu lo senti meglio tu? Lo sento fischiare, però la voce la capisco. Perché non ti arriva neanche il segnale? Se no si muove appena appena l'accetta, ma no, non vede il coso. Sì, in effetti è bassissimo. Io perché ce l'ho di fronte riesco a tirarlo fuori. Quindi, cioè, lo sto tirando fuori anch'io qua a Santiago 7, qua, Ciao, Gappa, mi ascolta a far questo, e tu non mi ascolti. Mario, guarda che già è un fischietto, non riesco a sentirti niente, non c'è niente, cioè, se sento questo fischietto c'hai poco segnale. Che sono senza antenna. Cosa hai detto tu? Ho detto che senza antenna. Ma l'accordatore non ce l'hai, Mario. Ma per antenna gli ascolta stare poco. Ci ha messo una così sotto la terrazzina, ma è coperta, capito? Non esce bene. Peccato. Peccato che non c'è neanche. Ha detto che gli ha messo una così nel terrazzino, ma non esce bene. Peccato che non hai una Storm 27, altrimenti ti avrebbe aiutato tantissimo a uscire a forte. L'altro giorno Mario ti sentivo, lo stesso ti sentivo, oggi perché no? Del resto quella che c'è nessuno l'ha buttato del tutto, l'ha troncata, prima era attaccata. Il vento dell'altro giorno me l'ha buttata giù completamente, e praticamente c'è la massa radiante, ma non c'è più stilo, capito? E ho messo una di PM, ma è giù nel terrazzo, ed è a 10 cm dal muro, così che non esce bene. Allora, praticamente ha detto che il vento quella là mi ha buttata giù del tutto, l'ha proprio spezzata, quindi adesso si deve arrangiare con un antennino piccolo perché mi ha buttato tutto. Cazzo, si è troncato giù tutto. Ma lui non mi sente a me, a tu? Lo sento io a lui. Ah, sì, io ho detto Mario che tu lo senti. Tu lo senti, purtroppo magari trova il punto negativo, no? Non riesce a sentirti bene. Io sento questo appena di bischietto e basta, come ti vai, cazzo, però. Mi sarebbe dovuto arrivare, cazzo, faccio però. Arrivare, ora ci sento questo appena di fischietto e niente, boh, aspetta a vedere, provo a invertire l'antenna, a vedere, boh. Sì, il fischio si sente, ma sento anche la modulazione un po' strappata, dai. Così si sente meglio, me la strappata. Scappa, si sente il fischietto, si sente. Con l'antennino piccolino che mi hai fatto vedere. Oh, è un estivo fine fine. È a 10 cm dal muro. Capisco, è da tanto che mi ascolti. Ah, va. Sputina. Beh, nella ringhiera tua non si può mettere, nella ringhiera del terrazzino, un'altra antenna. Per uscire un po' meglio con una strappa. Ma non ho detto niente adesso a portata di mano. Non c'è niente a portata di mano, così che bisogna che mi accontento di quello che passa al momento. Scappa. Lo so. Basta mettere i vatti bassi, se stai usando quello grande, basta metterci poco il vatti e non dovrebbe succedere niente. Ti sentono poco, dai. Così sono anche per l'attimo, non è che ne abbia chissà quanto. La cappa. Lo so, porca miseria. Sono nato in mancuna, solo che l'aveva data io una cosa, ma ci bene. Se l'avevo data io un'antenna. No, ma io come antenne ne ho tante, solo che non c'ho sistema come ti a casa, capito? Perché? Io c'ho il terrazzo che non è neanche fornente dal palazzo, capito? Sono tutti a filo dal palazzo. Così che l'antenna praticamente rimane nascosta dal muro. A te ti sento bene perché sei di fronte a me. Ma tuo padre già lo sento più basso. Però è alle mie spalle, se ci fosse più 31, è alle mie spalle, capito? Ma io sono di fronte proprio, sono di fronte, quindi non ho problemi a tirarti fuori. Per quello che quando c'è un'antenna su, qua è tutto a fondo proprio. Non ci sono problemi. Gabba, prova Mario, prova a vedere con questa. Guarda se mi ascolti, una tazza e tu. Ecco, ti sento basso, ma ti sento, però c'è il fischio ancora. Però con questa la circondata ti sento, dai. Sì, sono contento. Meglio così. Ma senta che non ti accorremo, anche se no. Perfetto. Ma so che tu vuoi di giudice, so che? Io ho saputo che io. Cos'è? Chi è andato a buono? E tu un goccetto di rosso? Positivo. Andà bene. Vedi, so

Quanti ti fischia, se mi sente? Cambio! Sei tu che stai fischiando, non io. Mario. Se ne scende, Luca. Ciao Mario, mi ascolti, cambio. Forse è chiaro, Santiago 9. Mario, senza fischi, come mai? Ammazza un po' l'amplificazione. Non lo fa, comunque ciao a tutti, non lo fa perché hai stazionarie. Ammazza un po' l'amplificazione. Sto facendo la vostra razza. Ma perché non è l'amplificazione? L'amplificazione è una cosa, io vado a un'altra cosa. Ma perché non mette metto l'amplificazione? Poco a poco. Adesso non si fa meglio. Prova. Con la tua azione prova. Meglio non ne sta più adesso. Stampa di positivo, va meglio. Fermate. Stampa. Ma tutti volevo dire le cose, boh. Stazionare non può più come sempre. Normale, quando è amplificato, è normale che inneschi, no? Fa rientro, di rientro e innesca. HC, HP, K. Vedi, io c'ho la manetta. Aspetta un attimino. Ok, dai. Bene, bene, mangiato, ci ho mangiato. Allora, ci va a fumare il pisolino. Fino a domani mattina alle 6:30, 7:15, e tu come mi ascolti, Luca? Sai che sta arrivando lì? Quattro, 9:10. Ah sì, perché per la parte tua, praticamente ti piglio di sbieco e riesco a passare un po'. Ma per quello che c'è di fronte a me, devo scavalcare il palazzo, c'è la penna che è attaccata al muro. Praticamente 10 centimetri staccato dal muro. Ora chi lo sei 9? Questo qua si 9:10 modulato, vai. Vabbè, dai, piano piano. Ah, ascolta, ecco, se mi sono ricordato. Luigi ha chiesto, ha fatto, non so se l'ha detto qualcuno, antenna non c'è, il giurato di farti sentire, quindi ti tiro il numero, lo chiami. Ti restituisci i soldi e tra quello viene da Gianni. Bene. Mascio, o se lo sento domani mattina, mi alzo presto. Dopo. Aspetti, ma tua madre lo sentito l'hai. Quindi non ho detto che non cazzo lo dimenticavo. No, non mi dimenticavo, come entrambi la mattina, stamattina non acceso, non c'eri. Ma che sono quando ieri, oggi, forse non mi ricordo. Ma ieri ci ho parlato. E niente. Ma tu che andate giù, non è, cioè l'ultima volta quando l'ho venduta lunedì in sera. Sono capito male. Come l'ho tirato la Mario. Cazzo, però non ce ne sono antenne. Quali quella riguarda da fuori. Che casino, va. So che ho il numero io tra ordini, Mario. E tra ordini tu. Solo che il problema è... A meno che l'indirizzo dove sta lavorando, poi se vai a casa tua non c'è nessuno, una rettina, è quello. Infatti è il caso che c'è nessuno, sì, anche per quello che avrebbe detto a Luigi, infatti magari Luigi me la ritira e poi con Luigi magari mi sentivo sabato e andavo e me la pigliavo, non c'erano problemi, perché io esco tardi. A scendere tardi a casa sua non fa, sarebbe solo un disturbo. Ho detto sabato vado, me la ritiro, invece se non è, niente, vuol dire che domani sera quando esco dal lavoro vado, mi piglio i soldi e vedo, se la trovo qui a salsa, tanto l'hai guadagnato, ho dato vino alla GPC o da qualche altro la troverò una testa, anche se me la fanno pagare di più. Vabbè, era un po' sciatolino. Vabbè, ti ha fatto ordinare la lui, me lo trovo lì tu. La tua ti fa pagare 10-20 euro in più, mi voglio. Certo. No, le scendi. A ordinare, per ordinarla io, cioè per ordinarla lui, la faccio ordinare la mia figlia tramite il computer o al telefono. E via, adesso domani vedo là, se la trovo qui a senso di stato di guadagnato e che non ci sia molta differenza, se no me la ordinerò da lui, vuol dire che aspetto una settimana in giro. Via, facciamo un giro, mi ci mandano la fanculo qua, guarda tu. Se l'avresti ordinata ieri, allora. Cioè, se l'avessi ordinata per esempio da lunedì, oggi era stata qua, qua a Sassari, era stata da te. Faccio guardare a Cagliari e Bucchi, niente, non succede nulla, amico. Anche se sto una settimana senza modulare, e se ne pippa. Sì, con quello già ci si arrangia, non è che un'altra antenna più piccola già si possa far trovare per il momento, poi dopo si mette. Fagappa. No, Tonino non ne ha di quelle di quella che vuoi tu, perché c'ha Midland, c'è altro tipo di antenne. Quello che ci dia è l'unico lì a Fredanieta. Non scendo. Non sei uscito. Ho detto, al limite ci passo sabato mattina, se ce l'ha ce l'ha, se no pazienza, rimane così com'è. Usano c'ha l'LM, c'ha la Ringo, la Super Lem, mi pare, e dove deve arrivare anche la Grand Prix. E la Super Lem è come la Mantova, un pochettino più grande. E la Ringo poi c'è un'altra cosa. L'unico che c'ha la Sigma con la Mantova è quello lì, è grassi. Ma dai, riprendi perché? Io riprendo per salutarvi, dai, faccio QRT, ce la riascoltiamo tra le migliori, ciao Antonio, ciao Mario, e ciao Bela, e ciao a tutti quelli che sono all'ascolto, ciao anche a Luca, dai, ciao ciao QRT da parte mia. Ciao, buonasera. Ciao, poi che buono. Anche buonanotte, buona giornata per l'onore, e buon lavoro, ciao. Ma c'è anche a te, avanti, chi è? Ciao a te, ciao, ce la riascoltiamo. Io... Che per fa, bobo, ma non rispondi, ma però. Io ho risposta. Perché ci giochi? Ok, giochi, ciao, che vai? Ciao, raga. Ma giochi. Ma il Ranger non c'è stasera? No, non ho sentito. Carburo non è uscito fuori stasera. No, non ci ho fatto sentire neanche tramite telefono. Quando non caglio vento, coglioia. E allora, chiamalo Marco. Sì, nelle campagne di Monteoro stanno spendo la trocchetta. Allora? Dalla Roscetti che sonata l'ha piccato. Di cazzo, credo se me l'ha già mangiata. Sarà finita puzzinosa, no? No, ieri sera ho avuto un'emergenza, ho dovuto scendere ieri sera tardi a Cagliari. E sicuramente sarei tornato tipo mezzanotte, l'una del mattino. 30. No, ma avvicino quel microfono a parlare. Vicino tocca a fronte un attimo a voi, mi senti? Cappa di positivo, ora va meglio? Stavo dicendo che ieri carburo ha avuto un'urgenza, quindi non lo so oggi, vai ed è tornato presto a casa se quel cazzo. Cappa, cappa, ho capito. Cappa, cappa. E cappa, cappa. Beh ragazzi, io vi saluto. Buonanotte a tutti. A domani. Ciao Yogi, ciao, buonanotte, buon trabacco per domani. Yogi, buonanotte, buon trabacco per domani. Ma, non sei uscito in radio, ti ha salutato anche Mario. Grazie Mario, ho sentito, non lo immaginatevi tu. Giaffa giaffa. Andrà bene, va. Buon lavoro, a domani, buon tutto, ci risentiamo. Ciao. No. Mi sa che... Ha detto durare. E non sa le mani che a me è bicicletta. Parlare di dolore, che se no pensi. Ciao, dopo che... Ciao, dopo che è un casino, ya. Vado male tutta la cosa rifatta, sai che male succede, deve essere un burretto però. Vera, cosa sei, combinetti? Senti da Mario. Non mi scusi. Forse non ti sente Mario. Cappa, cappa, va pure. Mi rimango in ascolto, io tanto non mi sente nessuno, così faccio chiacchierare a voi, cappa. Non ti abbattere Mario, non ti abbattere. Ma io non è che mi abbatto, perché non è che sto tanto bene, c'è un po' di dolore anche io, ma voi alla radio non mi sentite, allora tanto vale che rimanga all'ascolto. Niente. Ah, già ti intendo. Ah, strano, niente, non è stato doppio lui, non è stato nessuno. Oh. Non lo so, no. Non lo so. E io meno di te. Ho sentito oggi quando stava... Quando stava scendendo, poi non l'ho più sentito. Da... Luca no, non ci sta più Luca. Perché? Dai, speriamo di trovarla questa cosa, dai. Tu ci sei. Guarda che non la faccio mica una malattia, eh. Sì, vabbè. Oh, non è che ti sto dicendo quello. Ho detto. Già si trova, non si può fare. Già si trova. Riprendi il passaggio. Basta prendere i soldi, si trova tutto. Io voglia. Voglia che si trova tutto. Cappa cappa. Cappa cappa. Beh, niente di altro. Di solito durano anni, chissà se sembra un'età da questo. Cioè, vabbè, ce la facciamo 20 anni, però duriamo anche di più. Già lo so, ma... Ce ne sono che sono durate anche di meno. Cosa c'entra? Quello non c'entra nulla. Dipende dai tempi che trovi sopra. Magari... è successo qualcosa e ha ceduto. Cosa ne so? Io se avevano messo a me... Non c'ero rimasto manco una settimana sotto il tetto, invece l'antenna durata 20 anni. Non è che io non possa pretendere l'impossibile. Capito, poi vive preso tutte le intemperie, preso questa zona. E qui i vecchi li chiudono tutti. Paolo, è aperto, lì, tutte le temperie, è impossibile, immaginabile. Salutami a tutti quanti, perché io purtroppo non sento più nessuno. E niente, va, sarà risentiamo alle prossime. Ciao. Ciao Mario. Mario saluta a tutti. Tanto per farci la tramite, dai, anche quelli che non sentono. Ciao a tutti. Se non c'è nessuno bisogna accendere lo stereo, perché io sempre di qualche compagnia ho bisogno di viaggio. Non c'è nessuno, sono sempre acceso. Io la verità, Adriano mi ha chiesto di far addormentare a Marco prima di accenderlo, e ho fatto addormentare a Marco che era un bel stanco, e l'ho acceso adesso perché... Anzi, aspetta un attimo, perché si è messo tutto dalla pastiglia e che se non riesco a muoverlo. Dalla parte mia. E poi mi si chiude da Rulitto. Perché fa il birichino? No, sta dormendo, capito? Sta dormendo, poverino. Che fa? Adesso vuoi fare la scuola un po' piena. Oggi si è contro lo gabbo, che ha fatto un cucumao e mi ha messo la sopracciglia. Si è contro lo gabbo al muro. Sta fa la mano. Orrende, non ve l'ha fatta prima. Ho visto il muro, alzato la testa, boh. Sempre le solite, bambinate. Quando sei grande ci pensi a queste cose, quando sei bambino corri, vai, e il biscolo sta sempre correndo. Non so, già. Sta manco fermo quando parla, si sta sempre dondolando quando parla. Babbo. Non so, stavo facendo quello del computer. Sta meglio adesso, sì. Un po' meglio, dai. Vabbè, meglio così. Poi, io dico adesso che si incende la motocarrozzella, cazzo, mamma mia. Hai detto che cazzo sarà. Perché mentre c'è una motocarrozzella, la prima cosa che ci fa è che si cade a buio, adesso che è entrato, dai, mamma mia. Io ci metto con le yo-yo. No, ma dico. Sapevo che eravate già a Porto Torres, tutto tanto. E tu speriamo che non sia. Che non sia per Paolo che si è sbattuto. No, eravamo noi. Infatti c'è guanta assassina, una cosa del genere, in prima pagina. Sì, vabbè, ma sono cose che scrivono che l'ambulanza, diciamo che ne ha colpa fino a un certo punto, perché quello lì prima è andato nella corsia del camion, poi senza guardare è uscito per sorpassarlo, però senza guardare sicuramente, perché se no avrebbe visto l'ambulanza arrivare. Andiamo sorpassare con questo barroccio, una cosa sorpassi. E il camion che era fermo, perché lui si è accorto all'ultimo momento che c'era il camion, ma io non sapevo manco che c'erano stati morti all'inizio, capito? Sapevo che era successo un incidente, che si è sbattuto la motocarrozzella, ma non sapevo di che erano stati morti, niente, dopo me l'hanno detto. Sì, c'è tutta una cosa del genere, io già non credo, sti sicuri innato, e comunque la colpa è dell'ambulanza, sicuro innato, no... E chi se l'ha ragione? Da vedere tutto, è perché c'era un camion che era fermo c'era un camion che era fermo che stavano facendo, mettendo dei cartelloni pubblicitari, e non c'aveva nessuna segnaletica, c'aveva solo dei birilli per far vedere che erano fermi, però non è che c'aveva rallentare, limite velocità, di solito mettono queste cose. E questo qui si è accorto all'ultimo momento che c'era il camion fermo, quindi è andato a saltare per sorpassare l'ambulanza, stava arrivando il cronometro e corsa di sorpasso. Non avete seguito il circuito in alto, l'ambulanza gli è arrivata addosso, l'ha sbattuta contro il camion. Così è infatti, ma lui probabilmente non ha guardato, stava prima di sorpassare il camion, cioè sarebbe dovuto fermare e far passare le macchine che c'erano per uscire di nuovo, visto che ha sbagliato, che era per la corsia dove c'era fermo il camion. Adesso poi non so come siano le cose, però cazzo, scrive l'ambulanza assassina, non è che cazzo l'ha fatto, non l'ha fatto apposta, no? Non lo so come. Io già lo so, sì. Chi guida l'ambulanza è sempre soggetto a queste cose. Io ho rischiato per anni, grazie a Dio mi è andato sempre tutto bene. Non c'è appunto. E per quello che un bel ci rispensano prima di andarci. Chi l'ha già fatto ci ripensa, anche per quei motivi lì. Beh, se rischi la patente, se succede qualche cosa, rischi la patente di il burro travaglio. Molti dicono, ma ti pare che io fanno altra cosa, fanno guadagnare, ma corrotta devo fare tutti, uno ci pensa. Perché uno è disoccupato, vabbè, c'ha di chi, anche se di lavoro, ma quando uno va a un travaglio, fa una cosa, di tutte le mie cose, un effetto. E Anto, lo sai cos'è? È spirito di volontariato, ci credi o non ci credi? È come la religione. Se tu ci credi, vai in chiesa, eccetera, eccetera. Se non ci credi, non ci credi e basta. E quello lì è spirito di volontariato. Tu non sai che cosa vuol dire salvare una persona, come ti senti dopo che l'hai salvato. Ti senti appagato proprio spiritualmente, vai a casa proprio con una soddisfazione enorme. Lo so, perché... però alla fine di tutto per uno sotto sotto ci pensa. E se mi poteva andare male quello, se mi poteva andare male l'altro. Tanto poi ti fanno storia anche a pronto soccorso, come l'hai massaggiato, cosa gli hai fatto, ma gli hai sfondato le costole, ma questo, ma là. Come di storie ti fanno, ogni volta stanno a farti domande. Per rotture di palle. Ma una volta te ne dico una. Praticamente io stavo guidando e c'era mio collega dietro, con questo che abbiamo preso in un bar, sicuramente era cirrotico, c'era la cirrosi, aveva la pancia proprio gonfia e stava vomitando sangue. E praticamente l'abbiamo fatto a pronto soccorso e coso, e questo qui, questo infermiere professionale, mi ha accusato che praticamente io l'avevo massaggiato e gli avevo bucato i polmoni. Cosa mi intende? Ma scherzando, sta prima cosa, io stavo guidando, non potevo massaggiarlo, c'era mio collega dietro, e poi il mio collega non ha massaggiato nulla perché ci siamo accorti che era ceruti, che era stata anche aperta di cerusi, guardali la pancia, ha aperto il coso. E ma voi l'avete massaggiato, ma voi l'avete massaggiato, alla fine mi sono fatto dare il nome e cognome suo. E ho detto, se tu adesso ti azzardi un'altra volta a dire una cosa del genere, io sto andando al posto di polizia e ti sto denunciando, perché stai dicendo fesserie in questo momento, non sai manco quello che stai dicendo, ma voi avete bisogno di imparare, ma qua, ma là. Guarda, ma una notte così del pane che stavo per dirvi, asco, vattene in una mara. Te ne immagini, io stavo guidando che ti dice che lo mangia, a parte che noi l'abbiamo trovato così, l'abbiamo trovato che stava vomitando sangue, questo bar ci hanno chiamato per quello, se no poi bastava andare al bar e chiedere, non c'era nessun problema. E questo qui è stato anche operato, dicevo, se aveva un adrenghisi nella panza, sicuramente non è morto la gente, ma chi aveva, non era certo perché era stato massaggiato e bucato con le costole i polmoni, ma dimmi tu. una malattia che succede alla gente che beve tanto. Allora, quello lì ha cirrosi epatica, ti gonfia tutta la pancia, ha i dolori dell'altro modo perché gridano, fanno, vomitano sangue. Già lo so, già. C'è l'ampulla invece di munizione del corpo. Io sono contenuto dell'ampulla della realtà pronti, non era lo stesso. Comunque i rischi sono tanti, Oltre a quello, gli incidenti che possono succedere, ti puoi fare male agli altri, insomma, per dire, Antonio Orneo, quello che c'era alla Croce Blu, quando ha avuto l'incidente di cagazzate, aveva preso la patente. E non è che la Croce Blu ha detto, ti diamo i soldi per rifare l'esame, niente, capito? Come addirittura aveva accusato che aveva sfasciato l'ambulanza. Secondo me molti fanno bene e di pigliarsi nel culo, di non tornare mai più, perché non è possibile. Ma io potrei anche tornare, Antu, cioè sono sempre lì, sono sempre iscritto, ma adesso farei solo operatore radio lì e al centralino, boom, basta, a uscire giovane adesso. Almeno che se succeda qualcosa di grosso, che ci sia bisogno di gente e cose, allora sono il primo che vado, ma se no, non me la sento più di fare queste cose, nel senso che il rischio è tanto quando sei giovane magari ci pensi meno, e la volta che sei arrivato a puntarti ero dietro nell'ambulanza, che è tutto fratturato, svenuto dentro l'ambulanza e cose me ne hanno ricavato, me ne ha tolto, come si chiama? Pintus, come si chiama? Bah, quello che ha la Croce Blu adesso. Oh, Pintus. Esatto. Io ero svenuto dentro l'ambulanza. Sono venuto dentro l'ambulanza di Sassari per toglierci fuori e cose. Hanno messo anche una specie di cosa attorno di nastro per non passare. C'è un cataraccio, miau. Cosa ho la mania? Che sentite? No, negativo. Se metto che mi ha con la basso, non riesco a sentirlo. Senso? Non lo sento. E comunque, diciamo che la prudenza ci vuole sempre, perché le urgenze ne ho fatte, ne ho fatto parecchie, non poche, ma parecchie. Nell'incrocio rallentavo sempre, all'occorrenza mi fermavo, anche se vedevo che erano i macchini che non avevano l'intenzione di farti passare, mi fermavo, anche se dovrebbero fermarsi loro, ma tante volte ci sono i pazzi che passano lo stesso. E poi avevo una cosa, che io mi inquadravo già dove dovevo passare, già da quando partivo mi controllavo tutto il traffico com'era e mi inquadravo già il coso dove passare, capito? Solo che tante volte ti capitano gli ostacoli, le cose, sai come, quando fai una guida d'urgenza è sempre così. Vai, miau. Chi è che lo sta facendo il gatto? Oddio, sì. No, sono io, no. Sì che lo senti. Tu hai una ietta lì, Davis. Mio padre. Portatile. Non è tanto manco Giuseppe stasera, non ho sentito per nulla. Ho sentito Roberto Quadrata, Natalino e a Colso. E poi a Falchetti. Ma che sono un uomo in torre. Tu sono strano. Ian. Certo. Uomo strano che ti ha raccontato. No, non me lo ricordo. Non lo ricordo. Di ieri cosa stavo parlando. Rumore. Sì. Ah, sì. Ma per Paolo stasera gliel'ha detto che ha parlato con uno che se ne intende, gli ha detto che potrebbe essere dei rumori dovuti a qualche macchinario sanitario o così. Gappa, è sicuramente una cosa del genere. Cosa ho casuoli? qualche cosa sarà, se prima non ce l'aveva adesso ce l'ha. Magari anche tu la chiami te rubare su suio. Ah. Ci penso io. Oh my God. Chissà che ragazzi, perché dice che c'è una che ha bisogno di ossigeno in quel porto lì, e però quello lì non dovrebbe farle niente, perché non c'è nessun macchinario, apri e basta, e apri l'ossigeno e boh. Io mi ricordo che prima sentivano un bel in frequenza quelli dell'ospedale, specialmente quando le vicinanze tra il policlinico lì e l'ospedale civile. Ma tanto non fa vita niente. Io ho capito la stessa, stavo scherzando. Ce lo so sì. Ma poi questa cosa di cambiare tonalità anche. Era casino. Va, un concerto. Ma bene, proprio la terapia che fa a quell'ora lì. Molto vicino deve essere, per entrare deve essere vicino. Per carità. E comunque diciamo che è una rottura di scatole. Quello, ti disturba anche quello. Ma probabilmente anche perché l'antenna è a livello. Le antenne vostre sono basse, quindi prendono più disturbi, ecco. Regalo. Antoni, Gabba. E così è. Se no la parecchia drogata entra in burrussi per quello che è. Sono un sacco di disturbi per favore. Ci sono un sacco di disturbi proprio per quello. Tutti che ti godi fanno sé una massa di disturbi. Non ce l'ho presente. Quello che disturba qui. Oh, guarda, ci verrà a fare. Cosa? Ah, vero. Da resto, Vabbè. Sì, non so tutti che rispettano la legge. Si ne ha fatti un bel di bassotto. E quando hanno fatto la nostra manovella, che era piccolino, ci hanno fatto mettere il coso di piombo a noi. Una specie di camice di piombo. Siamo mai riusciti a capire dove era finita la fede, mai. Cosa ne abbiamo fatto non lo so. Quando era piccola Manuela, Viviana stava lavando i capelli, ha appoggiato la fede sul lavandino. Ha suonato il campanello, il telefono, è andata a rispondere. E Manuela stava parlando con Viviana mentre stava lavando i capelli. È ritornata e non c'era più la fede. Ha detto, ma noi dove l'hai messa la fede? Non lo so, ma nel bagno l'hai buttata e via, smonto lavandino, smonto PD, tutto quanto. Non ho già avuto niente. Beh, fatto sta che alla fine abbiamo preso la bambina e ci abbiamo portato all'ospedale a controllare se l'aveva ingoiata questa fede. E non ho dovuto fare la lancia tutto quanto e non c'aveva niente la bambina. No, papà. Ma no, non l'abbiamo mai trovata, l'ho dovuta far rifare la fede. E allora, se sarà ingoiata questa creatura, chissà cosa passa, io la portiamo subito all'ospedale, noi la portiamo, l'hanno fatto la lancia, ce l'hanno fatta entrare anche noi per tenerla, e ce l'hanno fatto indossare questo camice di piombo. E dipende, di qualche rimane nello stomaco, visto che è piccolino. E poi per tutte le pesci, quando... Non la trovi, smontato il coso del bagno, ho guardato dentro il bagno, ho guardato nel lavandino, ho guardato nel bidet, insomma, da nessuna parte c'era. Di 2 anni aveva, 2 anni e mezzo, Sai come sono i bambini, si mettono tutti in bocca, no? E ma nel momento per pacca, si diventi mano, quando vedi non la gatta nessuna parte, pensi subito che sei ingoiata. Noi ci siamo presi sicuro, fai. Ragazza, quindi te l'hai incudita? No. il bagno non verrà, non c'è né finestra, capito? Ma com'è possibile? Già ne gioco, si ne conta. Magari è capace che smontando, facendo, la troviamo, però nel momento, boh, è come tirare già a vedere la macchina scomparsa, non si sa dove sia finita né niente. Lo prego. Fanti, Alessandro. Già, ma grava. A te la cercare se devo alcare il pipistrello. Chietri sempre minuti. Stavo accompagnando mio figlio che mi stava facendo fare un favore, farmi compagnia, mi sono andato a portare quella cosa. Già ve l'ho detto, no? Ieri. Ma è cattivo, quando si è comprato il bello? Il computer touch screen, quindi mentre si ridocchi lo schermo e funziona così con le dita, no? Mezza reddua. Ah, campagatta. Nuovo l'ho presa adesso. Yeah. Ultima generazione, ya. Yeah. Questa poco, ya. Yeah. Vabbè, meglio un viso che sento male, chiarissimo. No, e beh, cosa me ne faccio? Ce l'ho preso una cosa da 13. Adesso se non ha preso, non ho preso bello. Va bene, davvero. Portatile. Anda bene, vero. Però non si può mettere a posto niente. Sì, bisognerebbe formattarlo, boh, gli aggiungo qualche hard disk. Ah, va, mi intrippo con questo, mica lo mollo. Lo fa, l'ho aggiunto, magari lo do a mio nipote che mi risente. Bottino, Bolino stavi parlando. Cappa. Lo sento. Tanto lo senti, Alessandro? Non è negativo, no, non lo sento. Comunque, buonasera. Alessandro, ti saluta, buon Bolino, non ti sento. Ma io lo ascolto anche un po' chiaro, un po' strano, ma mi sembra che sia strano, guarda un po', Boboli, mi senti adesso? Dove senti? Non lo sento già. Niente. Là, il tuo QRM è troppo alto. Capito? QRM. Dimmelo tu. Capito? Alessà, dice che c'è il QRM alto tu. Già lo sento, già. Qua è un rumore. Forse perché sto passando qua al Mater Ecclesia a me. E ogni volta che passo qua deve essere qualche cosa, vedi sta radio in chiri. E ogni volta che passo c'è un rumore allucinante. Sì, se no si passi vicino a via Prudenza da lì, l'incrocio per andare al Ponte Monfoli. C'è un rumore. Ah, sono proprio lì. Di qua, mi al bowling, in diviso. Qua, te lo sto dicendo che lo sento fischiare mentre di sotto. Io lo so, ci deve essere qualche ponte. Ah, ci sono i ponti alla 69. Via Gorizia. Magaba. Guarda un po' adesso, Popolino, se ci arrivo, se mi senti. Tanto, non lo senti per nulla. Non lo sento, ma tu vorremmo troppo alto. Mi ha provato ad attaccare, capito? Per quello te lo sto chiedendo. Fatta girare, c'è il Santiago Nova. È al televisore. Allora. Va bene, ci accontentiamo lo stesso. La pagava. Vabbè, adesso dove stai andando di bello? Qua tornando a casa che stavo accompagnando mio figlio a casa sua. E così. Ma no, vabbè, adesso sono in direzione qua, Ponte Nuovo. Ma ho cagliato il ribello. Anche, mi arriva bene anche il popolino strano che non senta. Ti ho sentito in quest'ultimo passaggio. Capacchiappa, abbiamo aumentato anche di radio tu, Elia. Sicuramente lì in mezzo alle case, come si chiama quella zona lì? Ma dove c'è Matteo Iglesia, di lì. Tu le sole. Non va lì, ma che strano. Però lo ascoltavo bene io. Non è che in un passaggio ti ho sentito bene bene, adesso non ti sento. Sento un po' disturbato, vai. Ma quanto ti sono per vedi già? Ma che qua? Mi sembra strano, eppure a Parigi si faccio stazionari, a chi mi sembra che non ce ne siano stazionari qua. 9:25, sì. Strano. Sarà l'antenna di Popolino che c'ha poca recezione. Ho appena spiegato cosa c'ho, cioè il QRM è troppo alto, non è che abbia poca ricezione, no? Cioè il QRM è troppo alto, per quello che non mi fa ascoltare gli altri. Praticamente è il contrario di quando tu disturbi il televisore, disturbi il televisore che disturba lui. Senza allucinante. Allora, quando c'è la televisione accesa, lui c'è il QRM alto, così è. Mi pare di aver compreso così. Cappa, però sono in casa sua. Immagino mai intesa una cosa del genere. Accendi la televisione, semmai fa al contrario, disturbi la televisione. Segnali troppo bassi, non riesco a riceverli, capito? Gava. E adesso gli faccio qualche giochetto di qua, uno di questi giorni, l'aumentiamo il miracolo, dai. Facciamo il miracolo. Beh, dici che chiudo tutto qua e salgo a casa, magari riprendo da lì. Ok, raga. Ehi, adesso, decidi di appoggiare la vecchia antenna tra capisci nella macchina. E adesso c'ho la calamita, li metto sopra così con le cubisaglose, con la, come ti si dice, non mi viene mai, cazzo. Comunque con quell'affare lì. E boh, chissà cosa era. Base magnetica. Vabbè, la base magnetica. Però sicuramente non la fa uscire bene come deve. Però io ho quell'antenna dove, amichita, ti ricordi quella grande che ho. E riusciva sempre bene con quell'antenna. Strano, visto? Va pure. Se così vaga, che cosa? Me la compareggio un'antenna in grazia di Dio. Con 32 euro ti raccompagni una GPC come quella che abbiamo noi, come quella che ho io sulla macchina, per favore, va benissimo, è morbida, non è di chi si rice, è leggera. Ma quella lunga che ti viene più vinto. Quella che va meglio di tutte, Alessandro. Alle popoli che stavo parlando anche io, non ho compreso nulla. Si chiama quella che va meglio di tutte, l'antenna. La Turbo 48. Ma è grande però come antenna, ne ho preso. Io la stavo cercando per lasciarla fissa, una piccola, però piccola con un bel po' di potenza, ecco. Non l'ho mai trovata un'antenna così. Non esiste, perché l'antenna della 27 è più alta e sono si trova. Ma già lo so questo, per poco di qua, è quello che odio, io ho una macchina piccola, un'antenna manna, pago l'autoscontro, quella cosa dell'autoscontro già. E se uno c'ha la passione, adesso si dà tutti i ciclosi. Ma non vuol dire io la passione raggio, però quando comincia la gente a baitarsi, ti mangi tu l'unica cosa, cos'è carabinieri, cosa non è, anzi, le pensano tutte, però non pensano neanche che magari mi serve perché fa farmi un po' di compagnia, che magari ho degli amici dietro, dietro questa cosa, capito? Quello non ci arrivano. E ti arrivano solo mi ha pensato male. Basta fare come ho fatto io. Una volta stavo passando dei ragazzi, si sono girati a casa, niente, non ci ho potuto arrivare. Io mi sono guidato e ho detto, se l'avessi avuta, le dico io, non l'avessi vista. Beh già, dai, ci sentiamo da casa che è attacco da lì a lì. Da voi non è che si chiama una manna, no? I santi ne sono voi Dio, non è grande. Poi se uno va alla passione, nella macchina suia, gibbone, ghisso, che ripare, ripiace. Nessuno deve dire cosa devi fare, è quello il punto. Non è niente di terra che se c'è l'antenna longa, tutti i dini. Eppure l'antenna longa non è più terra che di chi ci va in antenna longa. Ma non me ne passa mai, scopare palle. Dico la verità. Io, siccome te, io la penso così, siccome te la cosa la gioco un paradai, se posso buoni pure rugato ancora, appena te ne fatti niente. Però la cosa era mia e decido io, la puoi tu, fai lo che vuoi. Infatti. O poi non la vediamo tu su, comunque adesso quella che stai dicendo a te non è grande. Sarà 1,50 m, vero? Ah, anche di meno di 1,50 m. E la carica bella, quella troppo potente. E deve essere salita a casa. E poi non costa manco molto, quanto costa quella? Non lo so, no. chiederlo a Giuseppe. Cos'è la facilità che ha? Che non devi stare con quella farfallina, capito? Lo pigli, la svizzi, via. Giuseppe è quella che c'ha l'appunto, così? No, c'è un altro sistema ancora, quella. Praticamente è avvistatura, capito? C'è l'affare che avvista. Cioè, quando tu la devi togliere, non fai altro che fare così. Ne ha capo. Io tanto non le aggavo mai, quindi non ho problemi. Vabbè, ma se devi cavannire da una macchina che ti serve a togliere, è più veloce delle altre, non devi stare con questa farfallina attaccando. Chissà, in un minuto ne ha di risubito. Come la mia, come quella che c'è in macchina mia. No, ha un altro sistema già, si avvita da sopra. E quello gioca anche il castello. Ma dico, non è con la farfallina la mia si svita e via. La farfallina è fastidiosa che ti ingaggi la rondella, ti ingaggi ghiaccio, ti ingaggi le cose del cofano, cazzo come è successo a me, sono questa droga di credere. Io ci chissà, manco farfallina va. Vabbè, è un altro sistema, lui rimane tutto il mozzo attaccato e sviti solo la fare. Solo la te. Da poco non è finito. Da onde ti piace? Quella è buona, eh? Io ho fatta quella. La turbo 48 è fatta con quel sistema lì. Fammi dimmi. Alleluia. Raga, va avanti. Se ci sei adesso. E non è ancora arrivato. Anche la 2001 è così. Cioè, la 2001 c'è un altro sistema, però non ti va di pigliare un gatto. Comunque no, se ci si arrangia già va bene anche l'altro tipo normale a farfalletta. No, anche la 2001, diciamo, comoda lo stesso, però quando tu la avvitti da voi devi dare un pugno per svittarla, perlomeno come la avvitti a morte. Devi dare un pugno per svitarla perché se no ce la fai. Ciao, addirittura quello che quell'altra che ha preso Giuseppe c'è un altro sistema ancora, quella che c'è in macchina. E già l'ho vista, sì. Aspetta, le cose. E ma come le lemme non vi ne. E già cazzo. E anche le Sigma sono buone, le Sigma pure sono molto buone. Tu non hai mai provato le Sirio, quando provi la Sirio mi torni la risposta. Io ho visto che tutti gli altri si mettono sempre l'M, non Sirio. Non è così, già, non è così, lascia perdere. Infatti, a me da tutti i campi lo chiamano il Turbo 2001, con la Sigma, la PD5000 la Turbo 2001, è difficile che un'altra antenna. Ha bisogno di qualche uno. Forse già, se perché non ne hanno tutti. Perché non ce li hanno tutti quel tipo di antenne lì. Però chi l'ha provata sul camion, le 5000 turbo, è una salvatrenda, guarda. Fatelo dire da Luigi, è così. Ma sono antenne pesanti, sono troppo pesanti. La 5000 turbo è ancora più grossa della Gazzona Garga, oia. Così sono, e ma è dove una tappa col contra, Ma quelle vanno bene solo per i camion, anche con la base che vanno, in grossa così, si fa stare in due. Ma c'è differenza, c'è differenza. E ma poca roba, in ricezione c'è la differenza, poi di poca roba. Giappa. Purtroppo la realtà è questa. La realtà è questa, tu provi una e provi l'altra. E la differenza è anche di segnale. Di Tini che ci ha provato chi sa, no? Già lo sa il fatto suo pure. Niente da dire sulla 2001, Ma chi dà da dire che cosa in più? sì, vabbè, io mi accontento di quella che ho. Mi dà delle grosse soddisfazioni, basta dire che ho fatto parlato con la Spagna da Porto Torres sino a Sassari, ma accompagnato. Non ti dico altro. Propagazione già, proprio sicuro con una santenne con la Spagna, non è quello il problema. Il problema è un altro, che tu non ce la potresti mettere perché non è un camion, è una macchina, e quello lì è il massimo. Ma Edo, lui c'ha il camion, c'ha la stappalata e quindi la mette. E venne una meglio di chissà, chissà che va via, chissà un camionista che va via un buccione al posto della scarica. C'è americano. Chissà se un qua mi sente già un attacco di mani qui. In realtà ne stavo parlando sempre. Sempre qualche cosa in più la fanno, no? Quando una cosa è passata poi ne fanno un'altra nuova, sempre per sperimentare e fare concorrenza agli altri, normale. Comunque la 5000 più è stata completata una volta dalla 2001. La parte grossa sotto e poi lo stilo va a finire fine. Fatta così. Tutte sono così, sono tutte così le antenne. K. Anche quella lì va bene, però ho visto a barra agricola che io con la 2001 arrivavo più forte di lui di segnale che con le, che lui con la 5000. Sa perderà lui, e già lo sai. Comunque, adesso sto facendo solo l'altro attore, non i buoni più in macchina lì. Ti dicono così. Anche Massimiliano te lo ricordi che ti avevo detto va che già la metti, va che no, no, non è buono le macchine, oh. Cosa è passato? Non manco un mese via via di andare la macchina. È così, è così. Certo, di bucare la cappotta come ha fatto io non c'era il coraggio. Ah, come c'è la moneta retto dove c'è l'antennino per le cose, non mi guarda in nulla a me. Ma è brutta metterla lì dove c'è l'antenna della radio, puoi fare una cosa, puoi mettere una corta, non una lunga lunga. Solo le buone una di chissi, una tubo 48, qualche cosa del genere buone. Come quella che c'ha la mano, una cosa del genere. Anche le sigle, ma se non va buona, buona. No, niente da dire, perché si scende buono. Io la sigla mi ho avuto quella di ex, che era un vetro regina, ma sai quanto pompa ogni di ex, che mi faceva pure con l'Inghilterra, che mi ha abitato con chi San Fesa. Vanno bene. Poi va la molla giù e sopra poi va, senza nessuna carica, va la molla e più lo stilo centrale, la carica ce l'aveva all'interno dello stilo, deve essere. Oh, così a soppoia. Adesso, quando cambio macchina vediamo cosa ci mettiamo. Devi cambiarla? No, adesso no. Beh, che c'è la pace, che stai consumando poco. Va bene, ah. Io adesso già le vendo anche con l'impianto a gas direttamente. Adesso conviene stare calmo, poi dopo si può pensare. E mi ha detto che ci sono certe macchine che non vanno bene a fare il pentagas, tipo la Ford. Lo so, non tutte riescono bene. Ma il Ford proprio non le fa, perché ha detto che non hanno riuscito a cassa. Ho comparato le macchine. Proprio consuma, se abbiamo il furgone, il Ford dove consumava una barca di nafta, poi non camminava nulla, in realtà si cagava. Non mi piacciono le macchine Ford, dico la verità. Manca a me, nemmeno la mia. La nuova Fiesta un po' si salsa. Cos'è? Sì, sì, perché ti vanno bene, vanno bene, ma quando entri in officina ti rimani a riparare a capo. E consumo, consumo non bene. Magari queste sono un po' più limitate, ma costi di effetti, ciucciù. Non ti credi? Anche Natalia diceva così, sono andata a farmi fare la chiave, per la mia macchina ce ne volevano 100, per lui fare la prima sua e Fiat 150. Come, tu metti il vano a Renault, tu vanno già per una Renault, 200 euro ci sono venute qua, buona luce di Mingo, l'ha fatta una che conosco io, dai. Quello ha già non vedo se conviene lasciare la vita e basta, ma adesso c'è la casa della chiave perché sta tirando un nuovo sistema che di codifica le telechiavi. Stanno pronti a mettere in moto. Non so voglia. Avanti c'è, sì, manco più coraggiato a ponere in moto, avanti con il suo chip. C'è la bisogna metterle. Via. E stavo ascoltando se era più ciò che cos'era questo rumore semplice. Ho detto che adesso ci sono macchine, e manco più visto bisogna fare. E' vero. Entra la scheda e poi in moto. E le marce sono diverse, sono sequenziali, sono le macchine. Non vende più, anche la pressione è cambiata delle macchine, lo sai. Si consuma più. Praticamente se si brucia la pressione prima cambia il disco, quindi il disco normale, il disco della pressione, dai. Ma non è più lucino, ma devi giambare la campana dello spingidisco, è tutto un blocco, e c'è una vacca di vina, dice che fa più chilometri. Ma su che macchia? Macchine nuove che stanno uscendo. Tanto, macchine ne ho avuto circa 10 o 12. Non ho mai bruciato la frizione, mai. Che bello per di buono. Mai. Qui nel furgone sì, nel furgone una volta l'abbiamo fatta, ma dopo tanti anni. E dopo considera che il furgone quando è carico. Gaffa. Vuol dire che c'è il piede buono. Però le nuove frizioni, bisogna cambiare anche la campana del cambio, dai. Cioè, tutto un pezzo, e costa un po' di più, costa, però dici che fate più chilometri. La frizione è completamente diversa, le frizioni che stiamo facendo adesso. Ma fatta la gente ma tagliando magari buoni anche cose in plastica come facessi prima. Ma la plastica non è buona e mi ghibe, no? Sono molti ingranaggi adesso che stanno facendo in plastica. Non so, ma ero parlando in plastica che sanno. Cavagava. Fare gli offendi tutti così gli offendi. Poi andare a ciambare la pressione. Che ne mangia ripetere a capo, è vero. E meglio non bruciare la frizione a chi bruciare un bel. Non so, è soprattutto quello che stiamo facendo adesso, sono allucinato. Ma cambia solo la durata la frizione. Dice che dura un litro con questo sistema qua. Raga. Poi si è fatto tardi, ti saluto, ti auguro buonanotte e buon lavoro per domani. Ciao. Ciao, buon lavoro, ciao.